Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno amici e benvenuti. Oggi parliamo di sempreverdi, evergreen. Scommetto che quasi tutti voi all'ascolto ne avete uno in questo momento presente nelle vostre case. Alberi di Natale sono i sempreverdi ufficiali di questo periodo dell'anno, ma ci avete mai pensato? Nella nostra vita ci sono tante cose, ricordi, emozioni, persone, che sono diventate più o meno ufficialmente i nostri evergreen. Sono rimasti con noi nonostante il tempo che è passato in mezzo, con la forza e la vividezza del primo momento. Potrebbe, ad esempio, essere una persona che abbiamo avuto molto, molto vicina. Le sceneggiature erano più o meno così. Tognazzi e Vianello a un certo punto si ritrovano e vi potete immaginare cosa non combineranno questi due mattacchioni. Questa era la sceneggiatura. E quindi poi dopo si ritrovavano, che dobbiamo girare? Questa scena qua. Vi potete immaginare cosa non combineranno questi due mattacchioni. Pugni, pupe e marinai. Una girandola di allegre peripezie, di elettrizzanti imprese, di sconcertanti avventure vissute dagli inguaiatissimi protagonisti di questa esilarante vicenda. Ma quanti siete qui? 3+3, comandante. Buongiorno. Ben arrivato, comandante. Welcome. Ben trovate, signorine. Ma che capocampana? Ho dato la mia parola d'onore e la parola d'onore per capocampana è sacra. Potrebbe essere un film, di quei film che ogni volta che li vediamo ci sembra che sia la prima volta. Cosa fai? Lascia stare i denari che non è qui. E stiamoci un po' attenti con questi ragazzini. Avete ragione, sono una pesta. Oh. Ma lo sa lei che io ci perdo almeno un paio di centinaia di migliaia di lire all'anno con questi ragazzini? Al sabato, quando faccio scivolare la fontana, mi mancano sempre 3-4 mila lire. Perché? Il denaro che butto dentro la fontana è tuo paese. Si capisce? Questa è la famosa fontana di Treni. Appartiene alla mia famiglia da molte generazioni. Permette? Cavaliere ufficiale Antonio Treni. Complimenti. Decio cavallo. Come? Decio cavallo. Avevo capito cacio cavallo. Di un po', chi l'ha fatto questa fontana? Ah, sì, un mio bisnonno. Bisnonno? Sì, sì. Fece venire apposta uno scultore dalla Svizzera. Ah. Aspetta, paesà, qui dici che dallo scultore Bernini. Appunto, siccome veniva da Berna, era piccoletto, chiamavano il Bernini. Senti, io sono italiano oriundo. Ah. Ho lasciato l'America definitivamente e mi voglio stabilire in Italia. Ma vado in cerca di un buon business, sa. E perché non ti compri la fontana mia? E tu te la vendi? Eh sì. Il magnifico Totò, ma potrebbe essere anche un personaggio della TV con cui siamo cresciuti e che ogni volta che lo rivediamo, lo riascoltiamo, ci emoziona, perché in fondo la sua storia è anche un po' la nostra storia. Scusate la voce, ma come Nicoletti sono raffreddata pure io. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore, io sono pronta e tu. Dunque, ormai tu sei una presenza affezionata nostra, ma noi siamo affezionati a te, perché è una cosa reciproca. Vieni spesso, quindi fai tanti film, non solo in Italia, non solo all'estero, sei uno dei migliori attori italiani. E ora passiamo, signori, a Ernesto Marcello Latini, il tabaccaio di Monteforzio Catone. Fine, spegniamo le luci, signori esperti, preparatemi le domande. Perché no? Potrebbe essere anche una canzone, l'evergreen della nostra vita. Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Come i pini di Roma, la vita non li spezza. Questa notte è ancora nostra. E allora di questi sempreverdi e di evergreen parleremo oggi a Essere Benessere. 800 24 00 24. Abbiamo tanti quesiti ai quali vogliamo provare a trovare insieme una risposta. Che cosa rende qualcosa che succede nella nostra vita un evergreen? Che cosa possiamo fare per essere noi stessi degli evergreen, sempreverdi nel cuore, nella mente e nel corpo? E che cosa fuori di noi è disponibile, direi incorporabile nelle nostre vite per rendere le vite degne di questo nome, evergreen appunto. Avremo più voci a comporre il nostro puzzle stamattina, ma una funzionerà da filo rosso, da fil rouge dell'intera trasmissione. Ce l'ho a fianco, davanti a me, però in carne e ossa, ma vi la faccio ascoltare prima. Sotto una montagna di paure, di ambizioni, c'è nascosto qualche cosa che non muore. Se cercate in ogni sguardo dietro un muro di cartoni, troverete tanta luce e tanto amore. Il mondo mai sta cambiando e cambierà di più, ma non vedete nel cielo quelle macchie di blu e la pioggia che va. Sì, è qui davanti a me Shel Shapiro, il nostro evergreen di oggi. Ciao. Buongiorno, Shel. Ciao Nico, ciao. Buongiorno a tutti. Che sei addirittura così evergreen da essersi definito immortale, l'hai fatta grossa, nel titolo della sua autobiografia, da poco pubblicata da Mondadori. Devo dire che però il libro, care amiche, almeno già dalla copertina del libro tira su, perché c'è uno splendido Shel Shapiro. Quanto sei alto? Un bel pezzo. Beh, d'uomo. No, lo sai cosa? Che essendo, quando si diventa evergreen, si diventa più piccoli. Però c'è questa cosa che come si chiama? Tutta la schiena si comprime un po'. Allora, prima ero altissimo, adesso invece sono piccolino. Però diciamo, nella copertina, devo dire, care mie ragazze, che è ancora un bel pezzo d'uomo, con tanto di ali, nudo, e una chitarra. Tante di ali nudo, no, con tante di ale e anche nudo. Ecco. E poi descriviti. Descriviti tu che sei immortale e che sei nudo su una copertina. Che siamo... Avete venduto anche per questo. Bisogna essere trasgressivi, bisogna continuare a provocare, a divertirsi, perché se no... Se no come finiamo? Ma certo, come si fa a essere un evergreen? Perché io tradurrei questo aggettivo immortale in uomo dalle mille vite, dai mille sogni. E tu, Shel, in realtà hai una percezione molto realistica del tuo essere diventato un sempreverde nell'immaginario collettivo di tutti noi, perché così scrivi nel tuo libro. Sentiamo. Oggi sono diverso. Oggi sono molto più ribelle di allora. In tutti questi anni ho cercato di evitare di utilizzare la mia immagine di allora come unico e perenne cliché attraverso cui mostrarmi, cercando di non fare il replicante di me stesso. Sono abbastanza rigoroso a questo proposito. Io vivo adesso e voglio piacere al pubblico per quello che sono adesso. Non voglio che mi si guardi come un dinosauro nostalgico che vive del o nel passato ed è capace solo di ripetere in eterno gli stessi due o tre brani che lo hanno reso famoso negli anni 60. Non sono mai andato in TV a fare La Fattoria o L'Isola dei Famosi. Non sono mai andato in giro a svendere il mondo in cui mi avevano messo i ragazzi dei 60s. Sono rimasto quello che cantava È la pioggia che va, senza doverla però più cantare ogni tre minuti. Alcuni dicono di me che senza morire sono diventato un mito. Non tutti. Che sono entrato nell'immaginario collettivo con una collocazione forte, come di solito è concesso solo a chi paga con la vita. Sarei un postumo vivente che per qualche miracolosa ragione conserva la magia d'un tempo. È comunque vero che sono spontaneo. Non mi sono svenduto. Non ho diplomazia. Se fossi stato meno rigoroso, oggi forse sarei più ricco, ma non certamente più innocente. Spero che la gente oggi veda Shel come una persona viva, con un pensiero contemporaneo degno di essere espresso. Lì a Chuck si canta, per esempio, «Io ero lì». Quella sera lì, a quell'ora lì, e mettevo in gioco me stesso nel presente. mentre quasi tutti gli altri sembravano statue recuperate dal passato. E vedere Don Bachi nella vasca da bagno è stata un'esperienza conturbante. Sì, certo che hai preso proprio il punto. Ma io li leggo i libri prima di portarli in trasmissione. Sì, ho capito, però. Senti, voglio fare un commento adesso, dopo che l'hai scritto. Beh, di che cosa? Di quanto abbiamo appena sentito. Ma sì, sì, tu hai, va bene, si è utilizzato un pezzettino dove io mi autocelebro un po' qui, invece il libro non è così autocelebrativo, dai. Io credo che l'importante è accettare nuove sfide. Però vedi, tu io vengo qui e siamo amici da molti anni, però fai sentire la pioggia che va, fai sentire c'è una strana espressione nei tuoi occhi, le versioni originali, non le cose nuove, non le versioni. Perché ora ne vogliamo parlare? Perché è lì il problema. Cioè, disfarsi del passato non è possibile. Bisogna solamente cercare di di costruire sul passato e inventarsi nuovamente. Infatti tu ti sei reinventato, ti sei misurato anche con spettacoli teatrali che hanno avuto grande successo e continuano ad avere grande successo, Shell. Sì, ma sai, quello è un passaggio obbligatorio, credo, arrivato a una certa età, perché non puoi più fare il rockstar a 60 e rotti anni, insomma, non è più credibile. Sì, cioè, lo è per me, ma non è per gli altri. Quindi, da questa esperienza tua, che da questo noi ti abbiamo così invitato oggi, io avevo molto piacere di vederti, di parlare del tuo libro, che a me è piaciuto molto, perché raccoglie e ha una bel messaggio da passare anche a chi è una persona assolutamente fuori dal mondo dello spettacolo, eccetera, che la vita va veramente reinventata giorno dopo giorno e bisogna, tu sei un uomo dalle mille vite, ma no? È un problema accettare il passato, si conclude, ritrovare l'energia da questo passato per affrontare il presente e il futuro. Sembrano frasi fatte, però è così. Io penso alle persone che adesso hanno perso il lavoro, persone che magari hanno, no, una storia d'amore che è finita, un dispiacere. Ecco, provare a reinventarsi ogni giorno. Tu l'hai fatto nella tua vita, nella tua carriera, distaccandoti. Spesso. Ma tu hai detto una parola, secondo me, fondamentale, che è la parola energia. Bisogna indirizzare l'energia, che è chiaro che nel passaggio degli anni tende a sminuire un pochettino, a diminuire un pochettino. Però quell'energia che c'è bisogna indirizzarlo, bisogna sorridere, bisogna combattere, bisogna rischiare la pelle. E soprattutto credere di farcela. Vabbè, quello sì. Questo è un passaggio importante. Allora, oggi, insieme a Shell, vogliamo farvi così attivarvi su questo tema. Qual è il vostro evergreen? L'evergreen della vostra vita? Può trattarsi di una canzone, di un film, di una persona, può essere un evento che è rimasto con voi per sempre. Mandateci un SMS al 349-238-6666 o scriveteci su Facebook. E il messaggio che Shell Shapiro sceglierà come quello più evergreen, quello più in sintonia anche con lo spirito del suo libro, che io vi invito a leggere, regalatevelo, non regalatelo ad un altro, regalatevelo a voi stessi, riceverà a casa il libro con il DVD di uno spettacolo che Shell ha fatto insieme con Edmondo Berselli, Sarà una bella società, ecco, ed è quello che ci auguriamo anche per il prossimo 2011, Sarà una bella società. Che novità ci porterà? L'anno prossimo? Sì. Oddio. Qualunque cosa che non è come oggi, insomma. Cioè, inventiamoci un futuro più luccicante. Tra l'altro questo spettacolo... Più etico, più morale, più qualunque cosa, ma non come oggi. Senti, tra l'altro, ti voglio leggere, Marina ti scrive, il grande Shapiro, artista, ma soprattutto uomo di grande intelligenza e vera cultura. Grazie, Marina. Grazie Marina, sei gentile. Sì, ma ce ne sono molte, devo dire, ecco, che come Carla dice, sì, è anche un bell'uomo. Sì, è anche un bell'uomo, che questo aiuta o no? Ma io non riesco a vivermi così, sai. Da bambino sì, da ragazzino, come tutti i ragazzini, stavo ore davanti allo specchio e mi odiavo, mi trovavo assolutamente inaccettabile. Forse diventare cantante è stato un modo di combattere le mie sensi di deficienza estetica, non so, e poi a un certo momento subentrano altre cose, subentrano la voglia di emozioni, ecco. Che credo che una delle più grandi difficoltà per gente che diventa più grande, evergreen è una parola una parola gentile. Però fondamentalmente per gente che si sta invecchiando, sì. Quando uno dice ma com'è giovanile, sì. Io detesto quando mi dicono sono di lei giovanile, cioè, mia moglie che ha qualche anno, molti anni in meno di me, quando siamo in Francia un giorno c'era questa, hai visto la giovane donna con l'omagé, e tu dici oh mio Dio, sono io l'omagé. Sono io, oh Cristo. Quindi Senti, io vorrei parlare anche del teatro, perché il teatro è stato per te un'occasione un po' di rimetterti in gioco, ma di esplorare anche nuovi aspetti di Shell. Tra l'altro sarà una bella società, ha avuto un grandissimo successo, sì. E anche Shylock. Sì, sarà una bella società grazie chiaramente di un intervento massiccio di Edmondo Berselli, che... purtroppo non c'è più. Shylock, io sono in giro già da qualche mese con Moni. Tra l'altro arriviamo Moni Leggi per Moni Ovadia, Moni Ovadia. Ed è uno spettacolo, vorrei dire divertente, non è divertente, è uno spettacolo però fondamentale, cioè è una lettura di una rilettura di un concetto di Shakespeare assolutamente attuale. Ecco, vogliamo rileggerlo e darlo, perché mi piace prendere spunto dal tuo libro, dagli spettacoli che tu porti in giro, proprio per tradurle in messaggi, no? In propositi. Siamo, sì, in chiusura d'anno, e poi magari noi lo sentiamo per radio, un amico ci dice una frase, ci dà uno stimolo, un suggerimento, non lo ascoltiamo, viene fuori al momento buono. Beh, ma se, ecco, sai, c'è questo monologo famoso di Shylock, sì, nel Mercante, che dice se ci pungete non sanguiniamo, se ci fate solletico non ridiamo, che... È detto dall'ebreo dipinto da Shakespeare, che non aveva mai incontrato un ebreo nella sua vita, perché tra l'altro gli ebrei sono stati espulsi dall'Inghilterra nel 1290 e riammesso nel 1665, credo, da Cromwell. Quindi quando ha scritto Shakespeare Shylock, non si erano incontrati. L'ha fatto per sentito dire, sì. Quindi ha stereotipato una figura di ebreo che ha fatto epoca, come cattivo della storia, nonché cattivo del teatro, voglio dire. E quindi c'è questa situazione di però questo, ecco, quello che viene fuori dallo spettacolo, che questo monologo, che è detto da un ebreo, può essere detto, è valido per ognuno di noi. Cattolico, cristiano, protestante, musulmano, ebreo, cioè chiunque può dire questo monologo, ed è come ha detto Confucio, tutti gli uomini sono uguali, l'unica cosa che li differenzia sono i costumi. E quindi Shakespeare ha avuto questo genio di fare un discorso che abbraccia tutta il mankind. Non a caso un evergreen pure lui. Sì, ma forse un po' di più addirittura. Allora, il mio evergreen, mi scrive Luis da Treviso, è mio figlio che con i suoi errori e le sue fantasie mi mantiene sempre giovane. L'amore ai tempi del colera. Quale migliore evergreen di un amore conservato in segreto per mezzo secolo? Complimenti per la trasmissione, auguri Ilaria. Il mio sempreverde, il film La vita è una cosa meravigliosa. meravigliosa con James Stewart. Continuate a scriverci al 349-238-6666 o, se preferite, c'è anche a disposizione il nostro profilo Facebook. Andiamo a sentire i mercati, il meteo. Shel Shapiro lo tengo qua io e poi ve lo riconsegno subito dopo. 800-24-0024, consigli per restare evergreen. Essere e benessere. Siamo tornati. Chi o cos'è l'evergreen della vostra vita e che cosa della vostra vita ha, secondo voi, le caratteristiche o le potenzialità per diventarlo? Il sorriso, un libro tenuto nel cassetto, la vostra personalità, il vostro modo di ricominciare. Io non voglio darvi più suggerimenti perché dove siete voi a doverci scrivere. Posso dire una cosa? Qualunque emozione che ti abbia segnato. Bello, ma vedi che ho fatto bene a invitarti. Quindi... Bene, comunque, noi abbiamo oggi qua insieme a noi Shel Shapiro. L'ho acciuffato perché lui è sempre in giro, fa sempre nuove cose. Continuo, non so dove trovi tutta questa energia per l'evergreen, per essere, continuare a essere un evergreen, ma voi... Prendo tachipirina. Qua adesso, boom, ci... E voi scrivete, ce l'ho Shel, sceglierà il messaggio che oggi riceverà a casa, il libro con il DVD dello spettacolo di Edmondo Berselli e Shel Shapiro, sarà una bella società. Un titolo ben augurante anche per il 2011, dove ti porterà Shel? Nel 2011, continuo con Shylock in teatro. Tra l'altro, i primi 15 giorni di febbraio siamo proprio qui a Milano, al Teatro Elfo Puccini. Sta nevicando. Questo studio, a casa non lo sanno, ma questo studio è meraviglioso perché da dove sono seduto io vedo un parco dove sta nevicando ed è una roba meravigliosa. Io, chi se ne frega dove sarò, è meraviglioso. Questo momento qui. Perché ci sono io. Ma questo era senza bisogno di dire. Perché pensavo, dico, dove guarda? Dove guarda? Guarderà me? 800-24-0024 Fulvio da Roma. Ma tu sei impegnato. No, è caduto Fulvio da Roma. È caduto. Intanto continuate a scriverci. Colazione da Tiffany. Ogni volta che lo vedo il mio cuore sogna, ci scrive Elena. Beh, la musica è fantastica, la musica è straordinaria. Anche lei, eh? Sì, però no. Moon River è una roba da perdere il cuore, solamente per la musica. Allora, Maurizio, ci sarà o è caduto? No, Maurizio, mi dicono che è in linea? Sì, Maurizio, buongiorno. Salve, buona giornata, complimenti per la trasmissione. Oh, grazie. Volevo, allora, il mio evergreen è legato a un'emozione, come diceva il signor Shel Shapiro. Sì. Ed è una canzone composta e cantata da due miti. Uno è Mina, e poi del 1964, scritta e musicata da Shel Shapiro. No, grazie, grazie mille. Grazie Maurizio. Ed è, devo dire, è stata molto avanguardista come canzone anche. Ma perché eravamo giovani e speranzosi. Però una cosa che ci tengo è vorrei che, come diceva il signor Shapiro, che si guardasse al futuro, non solamente ai ricordi del passato. Comunque era una canzone strepitosa. Grazie mille, grazie. Prego. Allora, e a proposito di evergreen sempre verdi, che vuol dire non solo con tanta vita, no? Perché noi vogliamo, ma soprattutto anche con tanta vita, questi anni che ci regalano anche i progressi, è quello che... Sì, è un fatto di alzarsi sorridente. Cioè, la vita non è mai facile per nessuno. Per nessuno. Allora, per alcuni è più difficile che per altri. Non c'è dubbio, però io sono stato privilegiato come scelta di lavoro. Sì. Voglio dire, però poi i problemi quotidiani li abbiamo, li hai tu, li ho io, con tre figli, cioè, li conosciamo bene, tutte le storie. Bisogna però alzarsi and think positive. Bisogna trovare, raccogliere questa energia e riversarla sulla persona davanti a te. Allora comunichi famous good vibrations. E sembra un discorso molto superficiale, invece è molto fondamentale, credo, nell'affrontare le persone con cui uno viene in contatto. Io non sono lamentoso, voglio dire, certo. No, direi di no. Stamattina però mi sento, mi sento come Metusalemme, insomma, però è un, va bene così, bisogna combattere, bisogna andare avanti, bisogna non sedersi e dire vabbè, ho fatto e adesso. Ma noi ci facciamo anche aiutare per continuare ad avere energia e per così recuperare l'energia che magari abbiamo messo lì a sonnecchiare dal dottor Damiano Galimberti, che è specializzato in scienze dell'alimentazione e presidente dei Medici Italiani Anti-Age. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Michelle. Buongiorno, buongiorno. Allora, posso fare un abbonamento per favore all'Anti-Age? Sì, possiamo venire direttamente da lei, ci scriviamo, dice Shell, ci facciamo un abbonamento. Dottor Galimberti, la vita media si è allungata, è il risultato della medicina anti-aging o è la causa che rende necessaria tale medicina? Quale aiuta? Cosa, la medicina, i progressi della medicina hanno chiaramente fornito tutta una serie di strumenti che hanno aumentato le possibilità di combattere malattie, malanni, eccetera. Allungandosi la vita nasce anche la possibilità, la necessità di vivere meglio, cioè di invecchiare in modo qualitativamente più valido. Non è tanto importante vivere più a lungo, ma la qualità con cui si vive più a lungo. Fulvio da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Fulvio, che mi racconta? Racconto che questa trasmissione mi sta veramente coinvolgendo, perché le canzoni del gruppo The Rocks e di Shapiro per me sono state veramente fondamentali nella mia formazione, sono per me evergreen. Io all'epoca facevo parte di un gruppo scout molto avanti e per noi era una bandiera, era un manifesto, sia quelle d'amore che quelle, diciamo, sociali, perché non erano politiche e noi ci potevamo riconoscere nella pioggia che va, nelle altre canzoni, che colpa abbiamo noi. E l'ho sempre cantato ai miei figli, da piccoli loro li ascoltano e quando le ascolto anch'io, quei vecchi amici, adesso ho 60 anni, noi siamo sferzati. Sei un bimbo. Sei un bimbo ancora. Fuori. Una sferzata di energia. Sono l'evergreen è quando nel passato trovi il futuro e questo è bello, bello. Nel passato trovi il futuro. Grazie Fulvio. Fulvio, ecco. grazie davvero. 800 24 00 24. La musica di oggi è bella, però, cioè non viviamo solamente nel passato, ci sono delle musiche in giro oggi bellissime. Non facciamo, erigiamo dei muri contro quello che sta arrivando e contro quello che c'è, voglio dire. Quindi Fulvio, grazie, però guardiamo anche oggi. Allora, dottor Galimberti, allora, sicuramente la musica, poi, che attiva le nostre emozioni, ci aiuta comunque a vivere nel quotidiano meglio, ma lei che ricetta dà per diventare come Shel Shapiro, pieno di energia? Ma il concetto è proprio anche nel concetto stesso che ha detto prima, ho sentito la trasmissione dell'energia Shell, in quanto quello che può essere l'energia, quello che noi pensiamo, quelle che sono le emozioni che proviamo, a fianco di quello che è ovviamente la nostra alimentazione, il nostro stile di vita, l'attività fisica che facciamo, è un mix tra la nostra costituzione e quella che è l'interazione con l'ambiente. Ma l'ambiente non è semplicemente, come spesso si crede, l'alimentazione e l'attività fisica, è proprio la creatività, il mantenere attivo il nostro sistema nervoso, il nostro cervello, le emozioni, la riflessione, la meditazione, la cultura, gli aspetti intellettuali, il comportamento, sono tutte variabili fondamentali che aumentano la nostra capacità di reazione, il nostro sistema immunitario ne trae vantaggio, resistiamo di più alle malattie, siamo più contenti, sorridiamo di più e questo giova alla nostra aspettativa di vita qualitativamente migliore. Possiamo esercitarci, allenarci ogni giorno, vero dottore? Ma assolutamente, una un'altra cosa che ha detto Bella Primacelli, che non bisogna adagiarsi, questo vale per tutto, a maggior ragione nell'ambito della vita di tutti i giorni. Spesso si diceva c'era la paura dell'andare in pensione, no? Perché la pensione era vista come invecchio, una data limite, invece oggi bisogna mantenersi attivi e questa è la variabile principale perché il nostro organismo ne traga il maggior benessere complessivo. Passiamo. Dottor Galimberti lo dice proprio bene. Bravo, meno male, come si diceva, no? Meno male che l'abbiamo fatto studiare. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, e torniamo subito dopo insieme. Essere e benessere. Siamo tornati insieme, dottor Galimberti. Allora, soprattutto alla fine dell'anno, indipendentemente dalle primavere che abbiamo sulle spalle, ci sentiamo... Io non mi sento per nulla evergreen, mi sento veramente una patata schiacciata. Che cosa facciamo per tenerci su? Ma l'ideale è non complicarsi la vita nell'andare a fare sacrifici particolari durante le festività. Io dico sempre che si sbaglia tutti, chi vuole avere un'alimentazione corretta, chi non vuole averla corretta, vivere serenamente questo periodo e dopo le festività ricominciare ad avere un ciclo di vita sano. Ciclo di vita sano cosa significa? Un'alimentazione ricca di antiossidanti, ci sono tanti alimenti che possono giovare, che sono la frutta e la verdura, bisogna sempre avere almeno 5 pasti di frutta e verdura al giorno. Mangiare poca carne, pochi affettati, sono comodi, però sono anche quegli alimenti meno idonei per il nostro organismo. Sì. Un conto è mangiarli ogni tanto, un conto è mangiarli troppo spesso. Recuperare il consumo del pesce, diventare un po' delle piccole sirenette, ecco, questo come invito, aumentando il consumo. Dormire un po' di più, dormire meglio. Il riposo è fondamentale, durante il nostro riposo notturno il nostro organismo si detossifica, aumenta la produzione soprattutto di quegli ormoni che sono considerati gli ormoni anti-età, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista della forma e anche della bellezza, cioè nella prevenzione delle stesse rughe, ad esempio nella donna. Sì, nella donna, anche nell'uomo. A me piacciono molto però le rughe, non mi piacciono le facce tutte tirate. Però come il capello brizzolato. Insomma, Manuela da Pavia, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, volevo dire innanzitutto a Sher Shapiro che ho visto il suo programma e che ho trovato bellissimo il programma. Lo spettacolo, anzi. Sì, a quale spettacolo si riferisce Manuela? A quello di Milano. A quello di Milano. Sì, sì, sarà una bella società. E comunque bellissimo lui in senso lato, proprio come persona, non solo fisica, ma proprio come persona. Il mio evergreen direi che è la capacità, che poi ha detto anche lui, di innamorarsi tutti i giorni, di qualcuno o di qualcosa. Emozioni. Sì. Emozioni. Qual è l'emozione di oggi, Manuela? L'emozione di oggi me l'ha data lui parlando della neve a Milano che cade, che si vede attraverso un giardino. Anche a me mi ha un po' scaldato il cuore. Ma me l'ha proprio trasmessa. Allora, evergreen è questo. A me dicono, sono una persona fortunata che piaccio alle persone, ma io comunico. E lui comunica. Grazie Manuela. Vedo che Shell è rapito da questa... da questa telefonata, sì, che è una telefonata delicata e profonda. 800 24 00 24 Shell, lo spettacolo a cui Manuela si riferiva, sarà una bella società, ha avuto un grandissimo successo. Sì. Sì, ma è qual è il, e quindi no, ha tutte le caratteristiche anche questo per diventare un evergreen, cioè qualche cosa che resta e che continua a parlarci, no, indipendentemente dai momenti, dagli anni in cui lo vediamo. Che cos'era, che cos'è il segreto di Sarà una bella società? Secondo me di toccare è un segreto emozionale, perché racconta la storia della nostra vita. Ognuno di noi, voglio dire, ha vissuto esperienze diverse crescendo. Io ero un ragazzino qualunque che ha avuto la fortuna improvvisamente di diventare un cantante di successo senza averlo cercato. Poi non è che io ho cominciato a suonare per fare denaro, per avere il successo. Io suonavo perché amavo suonare, il mio rapporto era emozionale, era proprio con la musica, con me stesso, una specie di cosa interna. Poi ho avuto questa fortuna. Io credo che Sarà una bella società, come tutta la nostra generazione, poi rispecchia questa, questa voglia solamente di vivere, di energia, non eravamo instigati del denaro, della ricchezza, del diventare famosi. Oggi è diventato molto più andiamo a X Factor così diventiamo conosciuti, così diventiamo ricchi. Penso che Bob Dylan non andrebbe mai a X Factor e quindi avremmo perduto uno dei più grandi cantautori del mondo. Beh, sì, messa sotto. Sì. 800 24 00 24, mannaggia questo Shell. Non ti fermerai qui, però, vero? No, nel senso che io sarei contenta se tu venissi anche domani. Se io non schiatto oggi perché c'ho una tosse e un raffreddore, anche tu sei messo male. Se sono messo è Gianluca Nicoletti che ci ha appestato. Sì, è così. No, non lo so, è a Roma, ma insomma, passa. Guarda, nel futuro, vabbè, a parte di Shylock a Milano, poi dopo in aprile riprendo Beatniks, che è questo spettacolo sulla nascita della Beat Generation, che non c'entra nulla con gli anni 60. Sto parlando di Ginsberg, Ferlinghetti, William Burroughs, Neil Cassidy, Jack Kerouac, chiaramente. E andrò all'Ambra Jovinelli in aprile con quella e poi comincio le prove per lo spettacolo nuovo, il seguito di Sarà una bella società. Senta, dottor Galimberti, qua bisogna dargli, non lo so, che cosa gli diamo per un po' di, non so se dobbiamo legarlo oppure, non lo so, gli facciamo l'uovo sbattuto, che si fa? Ma io penso che abbia già implicito quello che ha detto, un pochino una specie di piccolo segreto di Pulcinella, che è quello di uscire dalla routine. Tutto quello che noi facciamo di attività non routinaria, quindi le combinazioni sensoriali della vista, del tatto, del gusto, l'odorato, il senso delle emozioni, crea più circuiti, fa sì che il nostro sistema non sia nervoso, il nostro organismo non si adagi, e questo lo mantiene vitale. E questo è l'invito forse più semplice che si può fare: uscire dagli schemi, dalle proprie abitudini, dalla routine, ma fare qualcosa di nuovo, di fresco, che fa funzionare a 360 gradi tutto il nostro organismo. Ma lei, ad esempio, scusi, dottor Galimberti, ci faccia amici, lei che suggerisce queste strategie, no, ai suoi pazienti, lei che cosa fa? Ma il discorso è l'importanza fondamentale, che un pilastro della medicina anti-aging è il movimento, l'attività fisica. L'attività fisica mantiene sano il sistema nervoso centrale, mantiene anche la plasticità neuronale, fa invecchiare meno rapidamente il nostro cervello. Uscire dalla routine vuol dire anche piccoli esercizi quotidiani, lavarsi i denti con la mano sinistra, fare la doccia su un cioè piccole cose quotidiane. No, quella fare la doccia dove, scusi? No, fare la doccia ad esempio stando in piedi su una gamba. Ah, aumenta l'equilibrio, cioè tu complica l'organismo. No, ma pensavo non ci suggerisce ci suggerisse qualche cosa di hard. Dico, mamma mia. Ciccio. Beh, magari, dai. Ciccio Graziani. Che buongiorno a buongiorno, voi, buongiorno. Che buongiorno. È un giocatore, ma è Ciccio Graziani come penso io? Lei? Sì, sono io. E lei è un grande giocatore di calcio. Che bello, l'altra volta avevamo una sciatrice che ha vinto le Olimpiadi, adesso Ciccio. Vuol dire che invito gli ospiti giusti. Ciccio, allora, a lei. Beh, due cose. Intanto mi rattrista moltissimo la perdita di una persona così cara a me. Sì. Per i traguardi, per i successi che abbiamo conseguito, ma solo per vi ringrazio perché avete dato la notizia mentre ero in macchina e questo mi ha scosso un po', ma al di là di questo mi piaceva intervenire perché io mi rivedo un po' in Shel Shapiro. Intanto ho una grande ammirazione verso di lui perché anch'io ho 58 anni, quindi sono cresciuto un po' nel periodo dei Rocks, dell'Equipe 84, di quei ragazzini, quindi mi sono appassionato alla musica e soprattutto io facevo il tifo più per i Rocks che per l'Equipe 84. Posso dirti una cosa, controcambio la stima davvero. Bravo. E allora io mi rivedo un po' in questo essere evergreen, perché anch'io, mia moglie mi dice, tu hai uno spirito, tu riesci a trovare il bicchiere sempre pieno in tutte le cose, anche in quelle più negative. Ciccio, noi dobbiamo chiudere proprio con questa. Oggi esercitiamoci a vedere il bicchiere mezzo pieno. Bravo. Ecco, questo è il consiglio di oggi. Fantastico. Ciccio, grazie per essere stato con noi. No, volevo solo sapere se devo acquistare eventualmente il DVD. Ah, guarda, vai in qualunque libreria e chiedi, sarà una bella società. E ti e arriva. Va bene, allora un abbraccio. Grazie. Un abbraccione. Chi, chi hai scelto, Shell, per oggi, che stiamo sforando? Guarda, stiamo sforando. Allora, io ho scelto uno, è difficile perché sono tutti belli. Qui dice, allora, arriva da un numero telefonico, Luis di Treviso. Il mio evergreen è mio figlio che con i suoi eroi e la sua fantasia mi mantiene sempre giovane. Perché? Perché gli evergreen devono essere cose positive, non possono essere ricordi tristi. Devono essere ricordi eventualmente energetici. Energetici, un bacio. Grazie a Shel Shapiro, grazie a voi che ci avete seguito. Torni intanto. Oh yes. Oh yes. Bacio a te, buon Natale a tutti. A domani.